Nessuno giurerebbe che questi sono gli Aphrodite's Child. Qualcuno un po' più anziano sa che questa era la sigla finale di Pop Off 21-29 condotta da Carlo Massarini, che dopo aver detto Rock on, keep on rolling mandava in onda questa sigla in Rai. Carlo Massarini, che aveva condotto anche Per voi giovani, e quando c'erano i funzionari che dicevano qui c'è qualcosa che non va, non torna, gli mandavano le traduzioni delle canzoni poi edulcorate per evitare la censura che c'era all'epoca, negli anni tra cavallo tra gli anni 60 e 70. Mare Geo, Agency, un album doppio piuttosto straordinario, si chiamava 666, gli Aphrodite's Child, ma Siete su Samarcanda Digital Network. Benvenuti su una radio speciale. Radiosamarcanda.it edita il microfono con voi. La gioia e il piacere di mettere dischi alla radio che ritorna con questa radio speciale. Una radio così credo che per il momento in Italia è esistita. E tutte le persone che hanno fatto la radio un tempo sono in giro a scrivere libri, a presentare serate, ma non fanno più la radio, non la possono più fare. Ma se volete approdare tutti qui, le nostre porte sono aperte. Se volete tornare a farci sentire come si faceva la radio e come si fa, come si può fare ancora, nonostante le tecnologie, solo per il piacere di fare radio, non dobbiamo promuovere niente, solo la gioia di stare insieme. Immaginare che ci sono tantissime persone insieme a noi in questo momento che stanno ascoltando e fare un gruppo. E da qui poi nascono idee, si viene distratti dalle scemenze, ci si riempie di cose molto belle. Questo pezzo degli Emerson, Lake and Palmer, che si chiamava From the Beginning, molto bello. E c'era anche la PFM in quel periodo che faceva cose. Per esempio, questa. Iniziava molto in sordina. Aveva pubblicato un album per la numero uno, la casa discografica messa su da Lucio Battisti, Mogol. Poi c'era anche Bonivento, poi c'era anche Mara. E c'era questo gruppo di ragazzi che spesso suonavano con Lucio Battisti, che hanno trovato finalmente il modo di costruire il loro primo album. Appena un po'. Premiata Forneria Marconi. Thank you. formazione era fatta da Mauro Pagani al flauto e al violino, Franz Di Cioccio alla batteria, Flavio Premoli alle tastiere, Francone Mussida alle chitarre, Giorgio Piazza al basso. Premiata Fornaria Marconi. Sono stati vicini con questo gruppo che arriva adesso, soprattutto con Ian Anderson, e loro sono i Jethro Tull. Ture, Jethro Tull, questi sono i dischi che giravano sui nostri giradischi all'epoca. C'era un signore con i capelli lunghi, Rick Wakeman, tastierista degli Yes, che quando faceva le cose da solo, faceva delle cose piuttosto inglesi. Le mogli di Enrico VIII e questa è Caterina d'Aragona, Rick Wakeman. Da Radio Samarcanda. Circondato dalle tastiere quando suonava negli Yes, e qui ancora lo vediamo circondato da pianoforti, Moog, sintetizzatori, e nel suo primissimo, credo, album da solo, le mogli di Enrico VIII, Caterina d'Aragona. E adesso un gruppo che in un certo periodo ascoltavamo spesso, loro sono i Gong. Il brano che ho scelto in maniera del tutto arbitraria si chiama Inner Temple Gong. Thank you. gruppo abbastanza curioso, i Gong, dalle atmosfere psichedeliche. E questo è un personaggio che bazzicava sempre da quelle parti, si chiama Stevie Hillage. Palm Trees è il brano che ho scelto. Un ragazzo del 51, Stevie Hillage. Un album che si chiama Green. Chitarrista londinese. Negli anni 70 ha partecipato a un gruppo che si chiamavano Can. Noi abbiamo iniziato con un brano che si chiamava Agency. È forse per questo che l'algoritmo mi ha consigliato di ascoltare un disco di un personaggio che non ho mai trasmesso, Steve Hillage. E gironzolando fra suoni progressive, dischi intorno agli anni 70, c'è un gruppo italiano che ha così mi ha accompagnato nei miei primi passi nelle radio libere, in questo caso a Radio Eurosound, ma prima anche a Radio Tevere. C'è un gruppo di musicisti molto bravi, alcuni ancora molto attivi come il chitarrista, si chiamavano Libra, e avevano fatto un LP in inglese e poi lo hanno tradotto in italiano, ma è un LP molto bello, al punto che in un periodo in cui erano negli Stati Uniti la Motown gli propose di pubblicare e di incidere un altro album. Fecero da supporter a Frank Zappa, a tantissimi altri gruppi, suonarono anche insieme al Banco, al Palasport, tanti anni fa, e c'era Dave Walter dentro, c'era Di Staso come chitarrista e cantante, Sandro Centofanti alle tastiere. Il brano che ho scelto è un brano abbastanza strambo, ci sono anche delle parole in romanesco dentro, però per quell'epoca l'argomento, sia di Mogol nelle canzoni di Battisti, insomma l'inquinamento, l'ecologia, l'inquinamento, era qualcosa di cui si parlava. Il brano si chiama appunto Inquinamento. Loro sono i Libra, un bellissimo LP che per tanto tempo è rimasto introvabile, poi lo hanno ripubblicato, rimasterizzato. Ma il primo LP della Ricordi mi è rimasto sempre molto molto molto impresso, è un gruppo al quale sono molto affezionato. Non credo che sia molto radiofonico, ma forse sì, dipende dall'ora, dipende dal momento, dipende anche da chi lo trasmette. Libra. Al basso c'è Dino Cappa. Il cibo non ha insomma, sta roba da mangiare, non riuscire. È cago, non sapevo. Vabbè, chiudi gli occhi. Libra, dal loro primissimo album che si chiamava appunto Libra, costruito su ritmi straordinari, e adesso c'è una fanciulla che, sfruttando il ritmo di un grillo e un'accordatura open, credo che sia una G open, Johnny Mitchell. Once in a while, in a big blue moon. Un bacio e un abbraccio, se fossi lì ad ascoltarmi in giro per il mondo, Johnny. Some surrealist invented this 4th of July night at home. Night right home. Yeah. piacerebbe molto che questo fosse un programma molto ascoltato dai giovanissimi, che avrebbero l'occasione di ascoltare musiche che magari è difficile da scoprire anche facendosi aiutare dagli algoritmi. Lei è Joni Mitchell, uno dei dischi più recenti, diciamo così, di quando stava molto bene. Adesso è un po' invecchiata, diciamo così, però insomma è sempre lei. Vediamo che altri dischi si palesano qui. Questo signore lo conoscete, spero. Jimi Hendrix. Bellissimo, perfezionista qual era, ha fatto questo doppio album dove c'era la famosa Voodoo Child, la versione quella lunga, dove c'è anche Steve Winwood dentro a suonare l'organo. Questa era Crosstown Traffic, Jimi Hendrix. Qualcuno c'era in studio anche qui. E adesso un altro grande chitarrista. Sei tutto sobrio. Ha fatto composition che si intitola Gaza City. Gaza City, dal vivo a Montreux, John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra, Shakti, ha suonato con Miles Davis, ha fatto dei dischi bellissimi da solo. Questo non l'ho mai sentito, lo sto scoprendo con voi in questo momento. John McLaughlin dal vivo a Montreux pochissimi anni fa, una registrazione molto recente. Gaza City. Simile al tema con cui si apre l'album di Eric Clapton dedicato a Gaza. John McLaughlin dal vivo a Montreux con una band che si chiama The First Dimension insieme a Nicholas Vicaro e Gary Husband, Jenny McPherson al piano e alla voce. Molto bello, molto intenso. Ecco, adesso sta presentando i musicisti. Ma lui dal vivo aveva fatto anche un bellissimo disco con tre chitarre, Paco de Lucia, John McLaughlin e Aldi Meola. Un brano di Aldi Meola che si chiamava Mediterranean Sun Dance. Questo sarà John? Non so, provare a riconoscerli. Il primo che ha iniziato è Aldi Meola. E sotto c'è Paco? Ma... questo mi sembra John, sì. Essere Paco? Pensare che questo era un brano piccolissimo nell'album di Aldi Meola, un album elettrificato ma abbastanza noioso, mi ricordo, non mi è mai piaciuto, forse non è il tipo di musica che mi piaceva, ma poi comparivano due brani piccolissimi, uno era questo e l'altro era dedicato a Roma, Mediterranean Sundance. Sister of Rome. E invece qui andiamo verso Rio, verso il flamenco. c'è Paco. Adesso giocano a rispondersi. Pubblico in delirio. Tre chitarristi straordinari: Paco De Lucia, John McLaughlin, Al Di Meola. Totalmente in delirio. Vabbè, straordinari. Io vorrei fare una dedica ai ragazzi della cooperativa Samarcanda che durante la notte, ammesso non concesso che questo programma possa essere irradiato anche la notte, rispondono alle vostre telefonate, alle vostre richieste e vi mandano un taxi. A me piacerebbe molto che questi ragazzi ogni tanto entrassero in studio e magari proponessero delle loro cose. Intanto io propongo le mie, e allora in questo momento siamo passati su da un altro chitarrista, un chitarrista celeberrimo, lui si chiama Carlos Santana. Di gioie ce ne ha date parecchie, Samba Patì, Abraxas, E questo album, registrato divinamente con una marea di musicisti dentro, si chiama Welcome. E iniziava con questo frammento di tastiere, organo, mellotron. E questo era il brano introduttivo di questo album, Going Home. Sentite i percussionisti, i batteristi, Mike Shriver. Ed è un disco che non si poteva frammentare, per cui ascolteremo quasi un'intera facciata adesso. I brani sono Going Home, Love, Devotion and Surrender, Samba de Sausalito e When I Look Into Your Eyes. Carlos Santana, Welcome da Radio Samarcanda, con Edith al microfono con voi. Love, devotion and surrender. Thank you. into your eyes. I see the ocean's endless shore, and I know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah, when I look into your eyes, all the love there is arrives, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. Disco straordinario, bellissimo, pieno di musicisti. Dopo di questo brano comincia un pezzo lunghissimo insieme a Joe McLaughlin, dove c'è un duello di chitarre. Se non l'avete mai sentito, vi consiglio di ascoltarlo, di comprarlo, di scaricarlo. È un disco bellissimo. Welcome di Carlo Santana a Radio Samarcanda. Non edite il microfono con voi? Tra l'altro un disco registrato veramente molto molto bene. When I look into your eyes. Grande Carlos Santana. Lasciamo i solchi di questo straordinario album di Carlo Santana che si chiama Welcome, e chiaramente Santana chiama anche la partecipazione di musicisti di cui lui ha fatto dei brani stupendi, e uno di questi è Steve Winwood, che andiamo a recuperare dal vivo insieme a Eric Clapton. E qui suonano un brano celeberrimo dei Traffic. Dear Mr. Fantasy. Okay. Steve Winwood, Eric Clapton, Dear Mr. Fantasy, un brano dei Traffic, dal vivo from dal Madison Square Garden. Musicisti che danno sempre molto, danno sempre tutto. E c'è un gruppetto che si è formato in Francia, cambia spesso i suoi componenti, i suoi musicisti. Io ne ho incontrati parecchi, li ho sentiti anche dal vivo, e uscirono con un brano molto divertente, un video bellissimo. Let's dance, little stranger. Dance with me. Show me. Nouvelle Vague. La voce è la bravissima Melanie Payne, che ho conosciuto, bravissima. Spesso le cantanti cambiano, qualcuna viene dall'Australia, qualcuna viene dalla Francia, Melanie è francese, chitarrista bravissimo che purtroppo non c'è più, Mark Holling è costruttore di questo progetto straordinario. In pratica fanno molte cover. Sentite, il sound è particolarmente curato, ci sono molti giochi di percussioni, una fisarmonica, probabilmente Mark Holling alle tastiere, Mark Holling forse, essendo francese. Dance with me. I Nouvelle Vague. Un altro brano bellissimo di questo gruppetto francese era il brano che sta per arrivare, un'altra cover, il brano si chiama non Too Drunk, no. Too Fuck. Un brano che ho usato come sigla tanti anni fa. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But no one cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out cop towers sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You ball like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Il brano originale era dei Dead Kennedys. Bellissima, bellissima cover. E adesso ce n'è un'altra, famosissima. Just can't get enough. Brano del 1981 dei Depeche Mode. Questi sono i Nouvelle Vague. Siete capitati su Samarcanda Digital Network. Edit al microfono con voi. Nouvelle Vague. Bellissime cover, bravissimi dal vivo. Ho avuto la fortuna di conoscerli, di ballare insieme a loro. E questo signore invece non l'ho conosciuto mai. Lucio Battisti. Innocenti evasioni. Mm-hmm.

ma cosa accadrà? Sono io che scelgo te, o sei tu che scegli me? Sembra quasi un gran problema, ma il problema non c'è. Gira, gira la gran ruota, e la terra non è vuota. Ad ognuno la sua parte, saper vivere è un'arte. Arrossisci finché vuoi, corri, fuggi se puoi, ma non servirà. Ma non servirà. Bellissimi giochi di stereofonia, doppie voci, cori, una chitarra molto ben suonata e da un grande a un grande. Chi è quest'altro grande? Eh beh, ma è Stevie Wonder. Il brano si chiama I Love You Too Much. I love you too much. un altro straordinario professionista e perfezionista. Ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo un paio di volte, ma una volta in particolare me la ricordo molto bene, era a Nettuno, allo stadio del baseball. E vabbè, poi ci sono i capolavori. Overjoyed. Over time, I've been building Stevie Wonder. My castle of love. Just for two. Though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I am beat out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, they do come true. For didn't my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over hearts I have painfully turned every stone just to find. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find. The love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. For didn't my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. Chance, and maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, overloved over you. Favoloso Stevie Wonder. E adesso una simpatica ragazza che si chiama Etta James. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Love to you, love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh. walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love in the whole wide world. Oh, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you, love to you. Bravissima Etta James, scatenatissima. I just want to make love to you. Ancora un brano di Etta. Forse noi diciamo Etta, ma magari in America si dice Etta. Etta James. At last. Anche noi siamo at last. Siamo addirittura d'arrivo. Bello. My love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah. Skies above are blue, my heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I Che meraviglia questi artisti, che sound. At last. Etta James, come diremmo noi. Questa è Samarcanda Digital Network, io sono Edith e voi siete fortunati perché questa radio non è assolutamente facile trovarla, una così, una bella radio. Style Council. Ultimo brano insieme, come sempre grazie per la fiducia, grazie per essere rimasti in tanti, ho visto. Non importa che ci telefoniate, non importa che... l'importante è che ci siete e che lo dite anche ai vostri amici. Fategli scoprire questa radio. Samarcanda Digital Network oppure radiosamarcanda.it. Siamo anche sul DAB, nelle nuove automobili. Cliccate sul DAB e cercate Samarcanda, Radio Samarcanda. E si sente molto bene, eh? In tutto il mondo, radiosamarcanda.it e ci trovate. Anche su TuneIn, anche su Replyio, però in questo caso con il vecchio nome ancora per un po', Radio Centro Idea. E magari avete una connessione un po' più stabile. Il suono è bello, vi piace? È così allegro. Abbiamo lavorato molto per equalizzare la nostra radio e per renderla così piacevole all'ascolto. Grazie, a presto, a prestissimo. Lo so, mi sono dilungato un po', però la musica era bella, è ancora bella. Ve la lascio ascoltare fino alla fine. Ciao ciao!